Il semaforo scatenate l'inferno, prima dentro, gas a martello e andiamo. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Io sono... Posso dire un ragazzo tranquillo che mi piace rimanere a casa, stare nella mia famiglia, giocare PlayStation, giocare a Visalto, bere il mate con mia mamma, i miei fratelli, cercare di non uscire tanto perché non mi piace andare tanto in giro, però sono più di tutto un ragazzo molto tranquillo. Lasciami andare, non ho alibi se sarò solo e perché voglio libero. Verificheremo le altre squadre come si comportano all'inizio del campionato. La Juventus ha fatto dei buoni acquisti, invidio alla Juventus Dybala che volevamo prendere noi, però ha perso anche tre protagonisti dell'anno passato e quindi vedremo. Man mano che aumentano i gradi di separazione, capisco che l'uomo che hai in mente non sono io. Lasciami andare. Dybala poi è entrato, direi ha fatto due o tre buone cose, è un giocatore giovane che ripeto ha grandissima qualità, però deve crescere anche perché, come ho detto e come ho già ridetto e come ridico, io credo che alla fine lui diventerà un grande giocatore da grande squadra giocando in un ruolo diverso che era quello della prima punta come era abituato l'anno scorso. Sono molto arrabbiato con l'allenatore della Juventus perché sta rovinando un campione pensando di metterlo dentro nei suoi schemi. Dybala è il calcio, Allegri no, e quando uno è il calcio, parla come Messi, vanno lasciati liberi di andare dove inventano loro il calcio. Lasciami andare. Questo Zamparini, ieri a Radio Sportiva 800 24 00 24, succedono tante cose intorno al mondo Juve, alcune sono successe anche questa mattina, quindi ne parliamo. Ciao Pier. Come va? Bene, bene. Sai che cosa penso io? Io penso che Zamparini ieri, insomma, abbiamo sentito un estratto di quelle parole che sono oggi su tutti i giornali, magari con il suo modo diretto, anche brutale, però abbia detto quello che pensano in tanti tifosi, giornalisti, basta insomma oggi dare un'occhiata in giro anche sulle prime pagine, cioè intanto che Dybala deve giocare ed è un non senso che sia diventata l'ultima scelta dell'attacco della Juventus, ma soprattutto, e qualcuno oggi sulla prima pagina Tutto Sport ad esempio lo scrive anche in maniera esplicita, che c'è qualche domanda, qualche dubbio anche su Allegri. Siamo un po' tornati indietro con la macchina del tempo a luglio dell'anno scorso. Sì, Pier. Ma allora che Zamparini pensi quello che ha detto non si sono tutti. Che Zamparini sia un tipo diretto, non particolarmente diciamo diplomatico oppure io non sono, ti dico la verità, allora mangio chi, cioè io penso una cosa, che se c'è un giocatore dell'attacco della Juve che a questo momento non perde la mano, che non ha fatto male, Dybala. Anch'io sono rimasto sorpreso dalle ultime due esclusioni, e ci poteva essere, soprattutto per quanto riguarda la partita con l'Inter, un discorso di fatica legato alla nazionale. Quindi sono io il primo a dirti che questo sta diventando un caso, un tema giornalistico importante. Però non arriverei a conclusioni particolarmente affrettate. Mi sembra che Dybala stia facendo bene complessivamente, per quanto è giovane, mi sembra uno dei punti di riferimento dell'attacco della Juve. Come dicevo ieri, c'era Carlo, mi sembra che la coppia di Dybala Morata sia la coppia di partenza. Il fatto che in queste ultime due partite non sia sceso, certamente sceso in campo al primo minuto, certamente mi ha sorpreso, ma non starei da qui a dire che si sta distruggendo un campione, perché mi sembra francamente un po' eccessivo. Però qualche domanda in questo momento viene fatta e secondo me è legittima, perché poi in panchina resta Dybala, in panchina resta Alessandro, altro acquisto costosissimo, Zaza che quest'estate era stato praticamente marginato dalle rotazioni è tornato a essere la prima alternativa. Ci sono tante domande. Ti dico che cosa ha detto Marotta qualche minuto fa all'assemblea degli azionisti. Allegri non ha mai chiesto esplicitamente un trequartista, ci ha illustrato alcuni profili, il modulo è una conseguenza dei giocatori che si hanno in casa. Hernanes è arrivato in extremis, non era una prima scelta, non abbiamo mai pensato di aver portato a casa un fenomeno. Sarà contento Hernanes. Ecco, ma anche Allegri, che tutta l'estate ha parlato della necessità di un uomo tra le linee, un centrocampista offensivo. No, Hernanes. No, Hernanes sarà felice, è felice. Sì, sai, so che vuole fare il programma quest'anno con altri, però alla fine, insomma, no, è un po' così, sì, è abbastanza sconcertante questa presa di posizione, anche perché poi, diciamo, ci sono delle diplomazie nel calcio che sono insopportabili. Se venga la sinceridà, però qua francamente mi sembra veramente qui protest, cioè chi non c'è un vantaggio per nessuno nel dire una cosa. No, è anche un po' brutale, sincero. Un po' brutale sicuramente. Ma allora storia, Gabbiadini? Nel senso, però il discorso di Dybala. Che dobbiamo dire di Gabbiadini, che fino a ieri sera non trovava spazio e ha dimostrato anche ieri sera di essere un attaccante? Però Gabbiadini è davanti il miglior attaccante d'Italia. Oggi nella Juventus c'è un problema del gol ed è il motivo per cui secondo me, ma avremo tempo di parlarne poi fino alle 15.30, 8.00, 24, 00.24, è improprio anche il paragone con Morata l'anno scorso, lanciato un po' per gradi, lì però c'era Tevez. Sì, questa secondo me è la differenza. Però insomma io adesso non ho sotto mano le statistiche con l'utilizzo di Dybala, è vero, sono fatto tre partite intere. Però mi sembra che lui sia entrato da protagonista, da titolare in questa squadra. Poi che nelle ultime partite, ripeto, si sia fermato, non sia partito al primo minuto, ho sorpreso anche me. Però mi sembrano ancora pochi indizi per pensare che ci possa essere un caso, al di là delle dichiarazioni di Allegri, che evidentemente lo vuole provare in un ruolo diverso e con altre caratteristiche. Ti ripeto, non enfatizzerei questo elemento, anche se sicuramente veramente Dybala è un grande attaccante, è stato pagato tanto, pur essendo giovanissimo, ed è ovvio e normale che nel momento nel quale non gioca la serie di partite al primo minuto il dibattito venga fuori, per cui non mi sorprende, ma per ora io sono ancora dalla parte di Allegri. Tu sei ancora dalla parte di Allegri, sì. Poi sentiremo anche chi invece oggi si è espresso in maniera abbastanza chiara e lanciando delle domande precise. In realtà qualcosa ha detto anche Agnelli questa mattina, ve lo faccio sentire. Nel processo di rinnovamento che abbiamo compiuto nell'estate eravamo perfettamente consapevoli che questo ci avrebbe potuto portare a qualche difficoltà nell'inizio della stagione in corso, che però, ancorché siamo ancora all'inizio del campionato, non è assolutamente una giustificazione per il 14° posto che oggi ricopriamo in classifica. Oh, pesiamo le parole perché vanno pesate, ma quando Agnelli dice c'è un processo di rinnovamento, ma questo non giustifica il 14° posto, poi cercheremo di capire con chi ce l'ha. 800 24 0024, traffico, torniamo subito. La monotonia nella vita è una roba brutta. Tutti convocati. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Tutti convocati. Direi che questo Mister X, questo trequartista, tutta l'estate che va avanti è diventata quasi... No, un tormento assolutamente. Io credo che la società stia lavorando bene per quest'anno e per il futuro, perché dopo la Juventus deve lavorare anche per il futuro. Questo Allegri, metà luglio, poi il tormentone è finito con Hernanes. Ripeto, oggi Marotta, assemblea degli azionisti, ha detto è arrivato in extremis, non era una prima scelta e non abbiamo mai pensato di aver portato a casa un fenomeno. Ha detto anche la sua cessione ha comunque generato una minusvalenza all'Inter. Così saranno contenti anche i dirigenti dell'Inter. 800 24 0024. Fammi salutare Pier Toni Damascelli. Ciao Toni. Ciao a tutti, chiedo scusa per la mia voce, ma figurati, non è impostata, è un problema condiviso. Sole, mare e niente. No, veramente io sono padano in questo momento, allora Luigi, mentre ti ho intravisto mentre davanti a un piatto di fettuccine cercavi di Vabbè, andiamo avanti. Parliamo di cose meno serie. No, parliamo invece della Juventus. Toni Damascelli, che oggi sulla prima di Tutto Sport, che insomma è un quotidiano che ha un qualche peso a Torino e dintorni, scrive un editoriale in cui vi lancia delle domande, pone delle questioni, e io credo vada al cuore di quello con cui abbiamo aperto, cioè si sta facendo piano piano strada l'idea che ci debba essere anche una valutazione sulle scelte di Allegri, quindi non solo il caso Dybala, il caso Dybala sia il caso più evidente oggi, Tony? Sì, io ho scritto questo pezzo senza mai citare Allegri apposta, ho parlato dell'allenatore della Juventus, del tecnico livornese, l'ho fatto apposta, perché in questo momento non ha un'identità l'allenatore della Juventus, non ha un nome, un cognome, perché così come la squadra sta attraversando da un po' di tempo, ma secondo me da un po' di tempo una involuzione chiara, evidente. È finita la scorta di chi ha preceduto Allegri è un buon allenatore, ve l'ho già detto qual è il mio giudizio su Allegri, e stanno venendo fuori alcune situazioni abbastanza ridicole, quella di Hernanes, anche la dichiarazione di Marotta fuori è inopportuna, non si può dire l'ultima scelta, tu hai a disposizione un patrimonio e gli dici pure così dopo non averlo impiegato contro l'Inter, non gioca nemmeno in Coppa, e cosa fa questo qui? Allora non pagatelo nemmeno. È un po' il rituale. Molto più importante la dichiarazione del presidente Agnelli, che ha detto che non è giustificabile affatto il 14° posto visti gli investimenti fatti, ha ragione. Ma io allargo la domanda anche a Pier, il tema è questo, cioè Agnelli che oggi dice non è giustificabile il 14° posto, ci sta trasmettendo anche un giudizio sull'operato fin qui dell'allenatore, Pier? Ma innanzitutto bisogna dire che chiaramente la società degli azionisti è qualcosa di un pochino diverso rispetto alla consuetudine delle interviste e delle dichiarazioni, diciamo, alle quali siamo abituati. Questo va detto, perché può essere un elemento, diciamo così, di contesto che ci può essere utile per capire. Detto questo, è chiaro che... Sì, scusa, che Agnelli, come tutti gli altri, come Gagliani, sa che ci sono i giornalisti a seguire, quindi sa benissimo che ogni parola poi verrà rilanciata e pesata. Nei consigli di amministrazione qui abbiamo lunga tradizione, dalla Barisoni a tutti coloro che si occupano di economia, alla fine le dinamiche sono le stesse, solo che magari insomma il consiglio di amministrazione o l'assemblea degli azionisti di una società che fa tubi o siderurgia, ci perdoneranno, è un pochino meno mediatica ovviamente di chi fa calcio, quindi ci sono meno giornalisti e meno interessi all'atere. No, io credo che però sono dichiarazioni assolutamente rituali, questo non ci sono dubbi. Il discorso del 14° posto è un discorso di estrema onestà, che però insomma secondo me significa è semplicemente un monito a tutti per svegliarsi, per fare di più, perché Agnelli ti dice che sicuramente il concetto è perdoniamo una stagione non da scudetto, no? Perché ci aspettavamo che ci potessero essere in questo processo di rinnovamento delle piccole titubanze, però il 14° posto non va bene, non siamo soddisfatti di quello. Tutone, hai l'idea invece che ci sia un preannuncio di, non dico resa dei conti, ma insomma di far capire a tutti che alla fine i risultati conteranno e come nella valutazione, cioè non esiste la stagione di transizione alla Juve? Ma il discorso della transizione, ma sì, è chiaro, sono quei discorsi che piacciono anche a noi giornalisti e ai tifosi. La verità è che Agnelli è anche presidente della Juventus, degli azionisti insieme con suo cugino, e quindi gli azionisti chiedono ragione dopo gli investimenti. Non è un discorso tecnico quello di Andrea Agnelli, perché se la Juventus si è riequilibrata, si è rialzata a livello finanziario, contabile, economico, di bilancio, e grazie ai risultati ottenuti in questi anni, se improvvisamente questo indice va ad abbassarsi, tutti i risultati ottenuti negli ultimi due anni, parlo a livello economico e finanziario, vanno in default, e quindi sanno benissimo quello che può accadere. Può accadere quello che è accaduto a tutti gli altri club italiani, non parliamo di quelli stranieri, che in questo momento si trovano a dover fare i conti. i conti che continuano a essere fatti come sul Titanic, però negli altri club. A Torino, se devi comprare una matita, c'è sempre bisogno di un consiglio di amministrazione che lo decida. Altrove invece è il capriccio magari di un presidente che procede senza ascoltare nemmeno uno dei sindaci o degli azionisti di riferimento. Quindi il monito di Andrea Agnelli è sicuramente rivolto a tutto l'ambiente e all'allenatore. Insomma, diciamoci la verità, qualcuno di voi vede giocare bene la Juventus? No, poco, ha fatto qualcosina qua e là, qualche mezz'ora dall'inizio della stagione. Sì, ma soprattutto senza identità. Anche Pinerolo l'ho visto giocare bene per 20 minuti, cosa vuol dire? Qui stiamo parlando di un club, a parte quotato in borsa, tutti questi discorsi economici che abbiamo appena fatto, stiamo parlando di un club che l'anno scorso ha vinto lo scudetto ed è arrivato in finale di Coppa dei Campioni, ha vinto la Coppa Italia, ha vinto poi la Supercoppa, poi improvvisamente incomincia a sbattere contro il muro, ma sbatte contro il muro non perché gli avversari sono diventati fenomenali, non perché in testa al campionato c'è una squadra che ha fatto il one play, ma perché è in difficoltà nelle scelte dell'allenatore. Guardate Allegri, dopo l'ho già detto, dopo due minuti parla già con Landucci. Sì, è una Juventus minuti. Che fatica a trovare un'identità, anche il continuare a girare tra un modulo e l'altro. Destro. Dice che non ha il terzino destro perché si sono fatti male Cáceres e Lichtsteiner, adesso vuol provare un'altra soluzione. Dopodiché capisci che Barzagli è il miglior terzino destro nel senso etimologico, quindi difensore di terza linea che esiste in Italia, ma ce l'hai il terzino destro. Eventualmente hai perso la fantasia in mezzo al campo. L'unico che può darti la fantasia è sicuramente Hernandez, che ovviamente non è un fulmine, non è Pjanic, non è, però ha per esempio calcio di punizione, ce l'ha. Sì. Invece l'ho scritto anche stamattina, guardate cosa accade nei calci di punizione della Juventus. No, ma c'è anche Toni che sta facendo le statistiche, insomma, oggi sono rispuntati anche i nostalgici, ovviamente delle punizioni di Pirlo. Dobbiamo fermarci, Toni, che c'è la borsa. Okay. Io ti ringrazio, grazie Toni Damascelli. Pier, io ti dico, io non credo che Allegri quest'anno stia allenando, Allegri è sempre stato un aziendalista anche al Milan, non credo che stia allenando la squadra dei suoi sogni, cioè io credo che a livello di campagna acquisti, soprattutto nella seconda parte, alcune cose non abbiano funzionato. Secondo me la Juve ha lavorato molto bene nel costruire per il futuro, ha lavorato meno bene nel costruire per il presente, perché a un certo punto si è veramente incartata durante la campagna acquisti. Poi c'è un ulteriore elemento, visto che oggi era l'assemblea degli azionisti e oggi basta guardare i tweet, insomma sapete che c'è stata questa uscita di Calvo dalla società che inevitabilmente, insomma, senza scivolare nel gossip, in qualche modo poteva accendere delle tensioni. Io credo che le dichiarazioni di oggi debbano in qualche modo anche rientrare in quel tipo di logica, in quel tipo di contesto. Quindi oggi, insomma, Agnelli ha parlato agli azionisti, ha parlato anche della questione Calvo, dicendo che non c'è stata questa famosa buona uscita e che semplicemente Calvo ha accettato l'offerta del Barcellona. Sappiamo che c'è gossip, che ci sono altre ricostruzioni in giro, ognuno le ha lette, si farà la sua idea. Nel momento nel quale diventa un argomento così conosciuto e poi diventa un fattore, quindi io credo che nelle dichiarazioni di oggi bisogna anche considerare il tipo di contesto che erano essenzialmente gli azionisti, anche se, come dici giustamente tu, i giornalisti ci sono, perché tutte le volte che si parla di calcio si è immediatamente mediatici. E poi per quanto riguarda il resto, secondo me è stato onesto Agnelli. Sì, è stato onesto, ma sono anche parole che vanno pesate. Ci sono già Nicola da Vicenza e Aldo da Treviso. Chiedo un minuto di pazienza che c'è la borsa. Poi torniamo a 800 24 00 24. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Che dire? Arieccici. Tutti convocati. Poi parleremo ovviamente anche di Valentino Rossi, del suo attacco a Marquez e Lorenzo, parleremo dell'Europa League e di tutti gli altri temi di questo venerdì sportivo. 800 24 00 24, Nicola da Vicenza. Nicola. Buongiorno, sono Nicola da Vicenza, gobbissimo. Premetto. Intanto complimenti per la trasmissione, Pardo sei un grande. Allora, due cose velocissime. Intanto vorrei dire al signor Zamparini che se tutti i presidenti della Serie A si mettessero a straparlare a livello tecnico su sugli altri delle altre squadre, sarebbe il Far West. Quindi il Pensi al suo Palermo, Dybala c'era affezionato, l'ha venduto, si è preso 40 milioni di euro. E adesso però c'è anche chi dice che è preoccupato per gli 8 di bonus se Dybala non gioca. Adesso io non so, perché non conosco esattamente cosa c'è scritto nei bonus. Sì, però è rituale anche che Zamparini parli così di un'altra squadra. Nicola, prego. Può darsi. Per questo non l'avevo considerato. E un'ultimissima cosa su Dybala, vorrei dire che si guardano le statistiche, i numeri, comunque al netto degli infortuni e tutto quanto, nonostante Dybala resta l'attaccante dei quattro della Juventus con più minuti giocati in partite ufficiali, quindi non è del tutto vero che Allegri non gli sta dando fiducia o non lo vede. Basta, tutto qua. No, ma però è Allegri stesso che dice che deve crescere, e alla fine nelle ultime scelte l'ha messo in fondo alle rotazioni. È questo quello che colpisce, ripeto, di una squadra che ha dei problemi di gol. Perché fosse una squadra che segna, tira e non ha problemi, credo che il tema non verrebbe nemmeno posto. È tutto il rituale. È il rituale che Dybala sia in panchina, è il rituale che Zamparini parli, come dice giustamente Nicola, in questo modo di un'altra società, francamente non è normale. Ed è anche, diciamo, poco elegante, anche se poi ti dico, a me Zamparini sta simpatico perché colgo un elemento di sincerità nelle sue parole, no? Quindi penso che gli fanno una domanda e lui dice quello che pensa, non penso che sia lì a fare chissà quali giochetti sul bordo. Però ci sta che Allegri possa dire ma Zamparini ma che vuole, appunto, come dice Nicola giustamente. Quindi di cose irrituali ce ne sono molte, tra cui appunto le dichiarazioni di Hernanes e il modo di parlare molto diretto, ma alla fine guarda, sai, secondo me Pierre, il rituale è anche che Marotta dica che Allegri non gli ha mai chiesto un trequartista adesso, o siamo impazziti tutti per due mesi quest'estate seguendo il mercato, oppure pare di ricordare che insomma ci fosse un profilo e delle indicazioni che portassero lì. Tanto c'è anche stata un'offerta a una settimana alla fine del mercato per Draxler, no? Sì, anche abbastanza importante. Ma guarda, quindi la Juve ha fatto, secondo me, giustamente, dopo quattro anni così, dopo la finale di Champions, ha fatto giustamente un lavoro di rimescolamento, di ringiovanimento, e secondo me in prospettiva ha fatto molto bene. È chiaro che ci sono delle difficoltà, ci possono essere delle difficoltà, su questo non ci sono proprio dubbi. Magari ce ne sono più di quelle che potevamo immaginare, che poi il discorso era fatto Agnelli oggi. Secondo me però c'è da distinguere fra una prima parte del mercato della Juve che è stata molto, molto brillante, perché la Juve andrà a prendersi i giovani per il futuro di Rugani, ha fatto comunque delle operazioni a parametro zero come Chedira, e la seconda parte nella quale si è incartata su questa ricerca del trequartista, tanto non c'era fretta, e nella quale ha finito per spendere molti soldi per giocatori che in questo momento sono sì. E poi è finito per arrivare di Hernanes, e la definizione l'ha data prima Marotta. Hernanes è arrivato nelle ultime ore di mercato, ma forse si avvia più uno come Perotti, faccio per dire. Sì, no? E poi non è un fenomeno, no? L'ha detto Marotta. Aldo da Treviso, Aldo. Sì, ciao. Eccoci. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io ero uno di quelli che praticamente ero uno che non la Lega non poteva vederlo l'anno scorso. Sì. Cioè, ero contrarissimo. Per fortuna mi ha fatto ricredere. Dico solo una cosa, come ha fatto con Morata l'anno scorso. È vero che c'era Tevez, però c'era Tevez, basta. Alla fine i due titolari sono risultati Tevez e Morata, e Morata ha fatto una grande stagione. Secondo me sarà così anche per Dybala, anche se c'è Mandžukić, c'è Zaza, in attacco ce n'è. E dico un'altra cosa, che per me la Juve nel peggiore delle ipotesi arriva secondo. Ah, può essere, quindi, questo può essere, grazie Aldo. Può essere, perché poi è ancora lunga la stagione. Intanto saluto Ivan Zazzaroni, ciao Ivan. Ciao, buongiorno. Uno che questa mattina ha detto, ha ragione chi dice che Allegri non è un allenatore da Juve, ovviamente ironizzava, uno che perde la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona deve essere una pippa, no? Sì, ma sono le solite cazzate che si scrivono su Twitter, sì. No? No, però evidentemente era una provocazione. Io trovo incredibile questa cosa, cioè io sono per il relativismo, nel senso che non è possibile mettere in discussione un anno per l'altro allenatore. Io penso ad Allegri, penso a Mancini, penso a gente che ha vinto. È una pippa, è scarso, era meglio Conte, era meglio quell'altro, magari uno può fare anche male in due mesi, no? Non è, adesso non è il caso di Allegri, lo faccio in discorso generale, ma non puoi mettere in discussione i valori di una persona, di un allenatore, di un professionista sulla base di 8 risultati. Invece nel calcio è così, nel calcio tu puoi vincere 18 Coppe dei Campioni e sbagli una stagione, sei scarso e non meriti, era meglio il predecessore. Pensa a Mourinho. Mourinho quest'anno sta facendo ridere col Chelsea, eppure c'è qualcuno che dice ma sì, sopravvalutato, tutte queste menate qua. Mancini ci convive con la sopravvalutazione. Certo, estendiamo anche all'altro allenatore che è sotto i riflettori in questo fine settimana, che è Mihajlovic. Oggi addirittura sulla prima della Gazzetta deve appellarsi a San Siro per evitare di perdere la panchina. Mihajlovic che un mese fa più o meno parlava così: per Milan è un dovere essere in alto, stare in alto, ma non ha un diritto di stare in alto, se lo deve meritare questo, perché non basta che noi abbiamo la maglietta del Milan e andiamo e pensiamo di poter vincere la partita perché ci chiamiamo Milan. Oggi è un po' più depresso Mihajlovic. Chiedo a Pierluigi Pardo, Ivan Zazzaroni, se davvero credono che questa sia la settimana che potrebbe anche portare all'esonero, perché poi oramai viene scritto in maniera chiara, senza girarci troppo intorno, Pier. Questa ipotesi c'è, ci sono due partite adesso per il Milan, è veramente da vincere, da buccia di banana, sì, perché sono due partite in casa, quindi sulla carta sono un'ottima possibilità per ripartire, però possono diventare anche, se le sbagli, veramente l'atto conclusivo. Io sono d'accordo con quello che dice Zazza, io penso che sinceramente appunto, cioè, quando non ti possono dire che sei scarso perché hai vinto talmente tanto, ti dicono che sei bollito. Il caso di Allegri è un caso assurdo, il caso di Mihajlovic è un po' diverso, perché Mihajlovic, per il quale abbiamo ovviamente tutti stima e anche, devo dire, simpatia personale, è stato un grandissimo calciatore, ha dato finora dei segnali importanti di poter essere un allenatore bravo nella costruzione di squadre di medio livello. Mihajlovic è essenzialmente come Sarri, cioè è alla prima vera grande esperienza su una panchina di una squadra che deve vincere, che ha il nome, forse non la qualità. Il Napoli ha più la qualità, il Milan ha probabilmente ormai soltanto il nome, però di una squadra che deve vincere. Quindi da questo punto di vista è chiaro che qualche critica in più e qualche perplessità in più ci possa essere. A me quello che sconvolge di più del Milan di queste prime giornate è l'assoluta mancanza di quella compattezza almeno difensiva che mi aspettavo che Siniza riuscisse a dare. Sì, anche perché noi conoscevamo pregi e difetti di Mihajlovic. I pregi erano organizzazione difensiva e capacità, esatto, di dare motivazioni, Ivan. Il dramma è quello, cioè che stanno mancando queste due cose. No, solamente si lavora per luoghi comuni, nel senso che i pregi di Mihajlovic non sono solo quelli. Cioè, lui parte col discorso che è uno duro, che fa tremare lo spogliatoio, poi in realtà passa il secondo piano il fatto che sia un ottimo allenatore. Se dovessero cacciarlo farebbero un'enorme cazzata, come lo scorso anno hanno retto Inzaghi fino alla fine, e vorrei capire per quale motivo un allenatore più pronto, più compiuto. È vero, oggi è irriconoscibile, perché l'altra sera vedevo la faccia di Sinisa durante quella roba ridicola del trofeo Berlusconi e francamente non lo riconoscevo. Cioè, non vedevo uno superato, addirittura scavalcato dai problemi della squadra, anche se giocavano 7 titolari o 5 titolari, quelli che erano. Io non lo riesco a riconoscere, credo di conoscerlo, adesso non per presunzione, come pochissimi, anche perché andò a allenare a Bologna su mio suggerimento ed era disoccupato in quel momento. Però non lo riconosco, cioè lo vedo troppo concentrato sulla tattica, quando è l'ultima cosa che serve in questo momento al Milan. Serve un'organizzazione diversa, servono cose più facili, servono scelte decise, radicali, e invece sta cercando di girare attorno a un discorso. Considera che fino all'altro giorno... Però Ivan, io sono d'accordissimo con te, dico solo che il Milan ha speso quest'anno. Però dici anche che ha speso male. Però se ha speso male, allora bisogna pensare o che abbia fatto delle scelte indipendenti dalla volontà dell'allenatore, però per esempio Romagnoli... Lui sai, mi dire che ha chiesto un centrocampista interno destro dal primo giorno e non è mai arrivato. È arrivato Kučka alla fine, che come sentivo prima Hernanes, la stessa cosa, cioè sono quei ripieghi che non risolvono mai, anzi alla fine poi vanno a chiudersi in panchina, arrivederci, grazie. Lui cercava un centrocampista importante, perché oggi non esiste un titolare a centrocampo nel Milan, cioè tu dimmi qual è il titolare vero a centrocampo del Milan, non lo sa nemmeno tu, cioè non lo sa nemmeno lui, e questo è un problema. Dietro problemi ce ne sono, anche se obiettivamente pensavo che desse un'organizzazione migliore alla linea difensiva. Si è messo anche Diego Lopez a fare cazzate davanti, non si capisce che giocatore sia Luis Adriano. Bacca ha iniziato benissimo e va un po' in difficoltà, e ultimamente abbiamo visto resuscitare Cerci, che mi sembra un corpo estraneo nel Milan. Quello ti dico, cioè vai avanti per una strada. Inizialmente Berlusconi voleva assolutamente trequartista, non era un'idea di... Cioè, la famosa cena di Arcore dove sono usciti dichiarando che Milan avrebbe giocato col trequartista, poi siamo passati al 4-4-2 dopo un mercato fatto senza cercare gli esterni, anche questo insomma è un po' un cortocircuito. È sempre un brutto momento per un allenatore del Milan quando cominciano a uscire i virgolettati di Berlusconi. Oggi la Gazzetta, in fondo ad un articolo dove scrive che Mihajlovic è sul filo, cita questa frase che Berlusconi avrebbe detto a Galliani a cena: Adriano, ma quand'è che lo mandi via? Riferito a Mihajlovic. Io non so nella scala delle arrabbiature di Berlusconi a che livello lo possiamo mettere. Di solito quello che manda via è lui, non è Adriano. Adriano di solito è quello che difende determinate scelte. Però al di là di quello che ho detto e di quello che ha detto anche Pierre, effettivamente il rendimento è scarso, cioè ha delle sue responsabilità, perché anche con una squadra imperfetta, anche con una squadra con problemi enormi, anche con una squadra che ha speso tanto ma strutturata, non puoi ritrovarti in queste condizioni di gioco più che di punti. Sì. Poi alla fine anche se i punti pesano, anche se i punti pesano, ha un punto in più della Juve, ha un punto in meno di Allegri dopo 8 giornate nell'anno dell'esonero, ha 5 punti in meno di Inzaghi. Aspetta, che siamo al traffico, Pier. Siamo al traffico, siamo anche un po' in ritardo. Fammi salutare Ivan Zazzaroni. Ciao Ivan, grazie. Ciao. C'è il traffico, torniamo subito. Io, da tifoso milanista, oramai lo stomaco me lo sono fottuto da un casino di tempo. Tutti convocati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Tutti convocati. Pier, la riconosci? È la colonna sonora, ecco, di Star Trek. Star Trek, infatti non volevo dire Ritorno al futuro perché è passato. Ormai l'abbiamo superato. Siamo all'inizio settimana, sì. No, qui siamo posso dire una cosa Star Trek. Trek? No, ma tu lo sai perché la mettiamo, la colonna la sonora di Star Trek? Perché chiaramente Star Trek è un gran film. No. Che ha fatto la storia. Perché a luglio, credo, uscirà il nuovo episodio di Star Trek e tra gli attori, credo non protagonisti, ma insomma c'è un cameo, sai chi ci sarà? C'è lui. Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, esatto. Che sarà uno degli scienziati che analizza un alieno. Pensa, volevano fargli analizzare il Milan e invece analizza un alieno. Ancelotti, siamo lì, Non me lo voglio fare milanisti d'ascolto, però no, Ancelotti era perfetto per un film di scuola, di Pupi Avati, per cose di questo tipo, no? Potrebbe fare l'attore classico emiliano, cioè, e invece fa questa parte. No, io volevo dire, a proposito di quello che diceva Ivan, secondo me è giusto, cioè a Inzaghi alla fine è stata concessa un'intera stagione, sarebbe assurdo cacciare Sinisa dopo 8 giornate, 10 giornate o quello che è. Però io credo che ci sia che rischierebbe di pagare anche le colpe di quelli che l'hanno preceduto, cioè l'ascoltatore, questo blob che abbiamo fatto sentire, che ha perso ormai l'utilizzo del fegato, è una perfetta sintesi, per cui ormai la pazienza del popolo milanista e credo anche di Berlusconi è una pazienza che di allenatore in allenatore sta diventando sempre meno. E poi in mezzo c'è un mercato da 80 e passa milioni che ovviamente ha alzato l'asticella delle attese. 800 24 00 24, ci sono Marco, Giuseppe, Alessandro, vediamo di farli tutti prima del GR. Marco, dalla provincia di Caserta. Salve, senta, volevo chiedere a Pierluigi Pardo, quando parla di qualità del Napoli, no? Sì, si riferisce a Higuain e basta, perché io non ne vedo altri. Sì, Insigne è scarso, anche Calleon, Hamsik. Ma sono tutti giocatori e molto divaghi, insomma. Poi io credo che il Napoli brilli di luce un po' riflessa dal fatto che fatalmente sta incontrando squadre o che sono in evidente crisi o che sono in fase calante. Il Napoli ha vinto con la Lazio, la Fiorentina, con la Juve, col Milan, con la Juventus, per carità, il Milan diciamo che è in crisi, la Juventus non sta benissimo, però Pier. No, semmai è interessante quello che succederà da domenica in poi. Ma va bene tutto, va bene, no, noi prendiamo tutti, 800 24 00 24, prego. Da domenica è interessante quello che succede, perché il Napoli avrà una serie di partite, cominciando da quella insidiosa in casa del Chievo, contro avversari sulla carta più facili di quelle che ha appena affrontato in questo scorcio di calendario, ma tradizionalmente per lei più difficile. Cioè, uno dei problemi del Napoli di questi ultimi anni, sia con Mazzarri che con Benitez, è stata l'interpretazione delle partite con le medio-piccole, con le squadre che si chiudono, con le quali magari hai qualche motivazione in meno. Quindi questo è un ulteriore test. Detto questo, mi sembra che a livello di Europa League il Napoli queste partite le abbia già affrontate, contro il Legia e contro il Midtjylland ieri sera, e se la sia cavata benissimo. Quindi sì, la mia sensazione rimane molto molto positiva, lo dico dal 21 settembre, vediamo. Sì, ma noi lo stiamo dicendo apertamente, il Napoli è la favorita per lo scudetto di quest'anno, i gesti di Giorgio De Luca li abbiamo già raccontati, però è quello che pensiamo. Alessandro dalla provincia di Modena, Alessandro. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io sono uno che non ha mai amato il gioco di Allegri, sempre se di gioco si parla. C'è una serie di episodi l'anno scorso favorevoli, decisivi, hanno portato Allegri a arrivare dove è arrivato, perché poi ci siete anche coerenti, sono state fatte trasmissioni sul fatto che Allegri ha trovato una squadra già fatta, sul fatto che in campionato non aveva avversari. È emblematica la sua fortuna a Coppa Italia, doppio palo, Matri segna, sorteggio, Conte trovava il Bayern Monaco, Allegri trova il Monaco e va in finale, va in semifinale praticamente con un rigore. Allegri trova il Borussia Dortmund, trova il Borussia Dortmund, il Monaco e il Real Madrid. Io veramente non sono d'accordo. Io penso che Allegri l'anno scorso abbia fatto una grandissima stagione, penso che all'inizio si sia giovato del lavoro di Conte e quindi nei primi 2-3 mesi non abbia cambiato quasi nulla, ma questa secondo me è una forma di intelligenza, non è soltanto una forma di non è una copiatura. Cioè, se ci andavo io, si era tranquillo che facevo peggio. Insomma, non bastava arrivare dopo Conte per avere questi risultati. Però vedi, Pier, nella seconda parte della stagione ha messo moltissimo di suo. La Juve di Allegri dell'anno scorso è stata nettamente più europea della Juve di Conte, ma nettamente, per il modo di intendere la partita, per il modo, per la personalità nel possesso. E non a caso è arrivata poi fino a Berlino. Però vedi, Pier, oggi se tu vai a Torino in un bar e fai questo discorso su Allegri, perché te lo fanno fare. Qualche mese fa sembrava fosse cambiato tutto. Armando da Legnano. Armando. Sì, buongiorno. Eccoci. Volevo fare una domanda riguardo a Mihanovic, che è un autolesionista da solo. Sì. Perché se avevano già venduto McSess e poi Berlusconi gliel'ha impedito, perché non l'ha fatto giocare dall'inizio insieme a Romagnoli, che c'era un veterano con un po' di esperienza e un giovane di belle speranze? Ma credo, Armando, poi lo chiediamo a Pier, perché gli allenatori hanno questo difetto qui, cioè che poi hanno le loro idee, no? per fare le squadre. Sì, beh, è chiaro, yeah. Perché poi comunque sono comunque eccellenze, anche se in certi casi non sembra da fuori, ma comunque stiamo parlando sempre di sfide fra giocatori di buon livello. McSess ha iniziato la stagione con qualche problema fisico e quindi questo gli ha impedito di essere titolare nelle primissime partite. Poi poteva rientrare, gli è stato preferito Alex, che è un altro veterano, però il principio è lo stesso, insomma, se vale per McSess vale pure per Alex. Io mi ricordo una mia telefonata, un nostro collegamento di qualche mese fa, quando Berlusconi decise di tenere McSess, in cui io difesi questa scelta dicendo che tutto sommato McSess, prima di buttarlo via, ovviamente rinegoziando un ingaggio che era altissimo, secondo me era una scelta che si poteva fare, e lo penso ancora. Penso che McSess sia un giocatore di buona personalità, tecnicamente molto bravo, con dei cali di rendimento, delle oscillazioni di rendimento inaccettabili per un grande giocatore, e questo è stato sempre il suo limite, ma nel Milan di oggi McSess è uno che è molto utile. Il problema è che quando le cose sono imposte da fuori, come nel caso di McSess, di solito le cose nascono male. Però Romagnoli che avrà, sì, ha bisogno di una spalla forse più esperta di Rodrigo Eli, questo il campionato ce l'ha detto. Pier, ci dobbiamo fermare perché c'è il GR, appuntamento domenica con te, giusto? Domenica alle 17, noi invece torniamo dopo il GR delle 15, 800 24 00 24, parleremo di quelle che hanno giocato in Europa League e di Valentino Rossi. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Il segnale orario vi è offerto da stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Si ricomincia. Tutti convocati. Cercano 1-2 il catturo, il pallone per Gabbiadini, Manolo! Ma che gol ha fatto, Pepe? Cosa stiamo vedendo, Fabio? Bellissimo. Uno più bello dell'altro è gol. Va sul fondo Mati Fernandez, la palla per Rossi che la mette dentro. Rossi trova il gol e riaccende le speranze della Fiorentina. Fischia l'arbitro, parte Candreva, respinto il rigore, ma poi sulla ribattuta fa 3-1. Peccato per la Fiorentina, perché poteva essere un giovedì perfetto. Veloce aggiornamento del ranking UEFA, so che vi interessa. Abbiamo recuperato in tutta la settimana un decimo di punto all'Inghilterra, siamo un po' più vicini, siamo a 3,345, ma io invito all'ottimismo, si può fare di recuperare il terzo posto prima della fine di questa stagione. 800 24 00 24, Giacomo da Napoli. Giacomo, pronto? Sì, eccoci. Sì, una domanda e un commento. Un commento era sul signore che ha chiamato di casetta: il Napoli vince solo quando le altre giocano male. E mi sembra, secondo me, qualcuno che non è da tifoso del Napoli. E poi una domanda a lei. Che no, è molto ma anche al di là tifoso o meno del Napoli, mi sembra qualcuno che probabilmente non ha guardato bene che cosa è successo da tre settimane a questa parte al Napoli. Però prego, Giacomo. Sono d'accordo con lei. No, solo un giudizio da parte sua, perché è una persona molto competente, sì, che ammiro molto e la seguo molto. Secondo lei questa squadra, nell'ambito di come sta andando il campionato quest'anno, che non c'è una Juve a massa campionato, il Napoli potrebbe, diciamo, puntare a un posto importante, non dico lo scudetto, ma un posto, Giacomo, importante. Secondo me è tutto chiaro, cioè se il Napoli è questo di da quando Sarri ha messo il 4-3-3, i numeri sono spaventosi, 7 vittorie in 8 partite, 24 gol fatti, cioè 3 subiti. Se il Napoli è questo, è la squadra che gioca meglio in Italia. Siccome non potrà essere questo per 9 mesi, bisognerà vedere come saprà assorbire i momenti in cui giocherà fatalmente meno bene. Ma il Napoli insieme alla Roma è assolutamente in corsa per occupare quello spazio lasciato libero dalla Juventus. Guarda, lo chiedo anche a Giovanni Galli, che saluto. Ciao Giovanni. Sì, ciao, buonasera, cioè, a tutti. Come si fa a considerare il Napoli non tra i favoriti per lo scudetto oggi? Lo so, bisogna che tu lo chieda a quelli che non lo credono. C'è anche, no, chi ha chiamato per chi ha chiamato per dire Napoli sta giocando bene perché gioca solo contro avversari in crisi. Intanto si è bravi anche a accentuare la crisi degli avversari. Non è scritto da nessuna parte che sia così automatico: se una squadra è in crisi tu debba farne un sol boccone. Io credo invece della qualità del gioco e penso che Napoli abbia una grande idea di calcio, un'idea di calcio propositiva, e ha degli interpreti importanti. Io credo che nessuno, forse la Roma, beh sì, forse ne possiamo discutere, ma il Napoli ha un doppio giocatore in ogni ruolo. Poi non vedo, al di là della grandezza di Higuain, il resto. Vedo tutti i giocatori che, se non gioca, faccio per esempio, se non gioca Insigne e gioca Mertens, non credo che, ecco, si possa cambiare tantissimo, no, l'inerzia della partita, o possa incidere tantissimo. Sì, il dubbio potevamo averlo su Gabbiadini, perché Higuain non ha un suo vice in questo momento. Se Gabbiadini è quello visto ieri sera, direi che Gabbiadini le risposte ci sono. scusami, ma Gabbiadini ci si deve meravigliare quando gioca male, perché è un giocatore che ha qualità, un giocatore che ha forza, un giocatore che ha il gol, un giocatore che gioca con la squadra. E poi alla fine, insomma, dire, quando c'è da farsi trovare pronto, o su calcio di punizione, o un gol di rapina, o il timbro lo mette sempre, insomma. E a centrocampo Allan, allora io dico soltanto Allan, Valdifiori, Giorginio, Nico Lopez, Amsic, beh, insomma, ditemi, no, chi può avere, chi può vantare in un centrocampo organizzato, perché al limite, se si vuol discutere della qualità del singolo, forse c'è qualche giocatore più bravo, ma in un centrocampo organizzato, in una squadra organizzata come il Napoli, credo che il singolo poi dopo ne abbia dei grandi benefici. Basta vedere la difesa. La difesa l'anno scorso era un colabrodo. Sì, è bastato organizzare la fase davanti alla difesa, cosa che per 2 anni inutilmente è stata chiesta a Benitez, perché bravo. Poi il calcio è anche una cosa logica. Sarri ha trovato la quadratura del cerchio quando ha fatto giocare il Napoli come doveva, cioè valorizzando la grande qualità che ha sugli esterni offensivi. Poi ti chiedo un pronostico invece, che cosa ti aspetti su Fiorentina-Roma, però c'è Igino d'Avellino. Igino. Sì, salve, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, volevo tornare un attimo sull'argomento Milan, anche paragonandola alle squadre che oggi sono in Europa League, mi faccio riferimento a Napoli, Lazio e Fiorentina. Si parla di Mihajlovic, no? Sì. Delle sue qualità di allenatore, che io personalmente non mi aspettavo, parlo da tifoso milanista, in quanto non ha mai dato, secondo me, un gioco alle sue squadre precedenti, quindi... Mi aspettavo, non forse così male, però mi aspettavo questo Milan. Però proprio rispetto a squadre come Napoli, Fiorentina e Lazio, non capisco perché non si parla mai della dirigenza del Milan, non solo nella progettazione, no, di cui spesso si parla, ma anche proprio a livello di competenza e conoscenza del calcio di oggi. Mi sembra che se ne parli però, Gino, del tema, se sia arrivato il momento ad esempio per Gagliani di fare un passo indietro, che qualcuno glielo faccia fare, perché poi noi facciamo il processo a Mihajlovic, Giovanni, però è anche vero che il Milan viene da un'estate con un mercato quantomeno incompleto, cioè che a un certo punto si è fermato, speso tanto ma sono mancate un paio di tessere del puzzle. Ma intanto sai, dice giustamente il nostro ascoltatore, che è tifoso fra l'altro del Milan, e credo che possa essere, al di là della rabbia, no, anche, cioè, se sei tifoso della squadra avversaria, allora dai addosso perché non stanno andando bene, ma essendo tifoso della squadra hai anche un occhio sì critico ma anche benevolo. Ha ragione, perché credo che il Milan abbia fatto una scelta. Io non discuto le qualità dell'allenatore, però se faccio la scelta di un allenatore devo mettergli a disposizione un organico che abbia nel DNA o perlomeno nelle caratteristiche, no, delle doti che possa mettere ed esaltare il gioco di Mihajlovic. Perché dico questo? L'anno scorso la Samp ci ha impressionato, no? Perché è stata la grande sorpresa del campionato. Per quale motivo? Perché era una squadra che pressava altissimo, aveva i 3 attaccanti, e mi riferisco ai primi 6 mesi Gabbiadini, Eder, Okaka. Poi dopo è arrivato Eder, sempre Okaka, Muriel, Eto'o. Certo, non sono giocatori che hanno, no, diciamo nel loro DNA il pressing, però riuscivano a farlo. Erano funzionali a quel gioco. Oggi il Milan non li ha, evidentemente. No, erano disponibili a farlo. E poi anche un'altra cosa, Eder è comunque un giocatore, un finalizzatore, però gioca anche lui con la squadra. Muriel è un altro finalizzatore, però quando arriva sul fondo con la sua velocità ti crea scompiglio e fa l'assist. Eto'o è un giocatore che gioca più per la squadra che per se stesso. Okaka si è sfiancato, ha fatto chilometri l'anno scorso. Sì, sono l'esatto contrario di Balotelli, Bacca e Luis Adriano. Giocatori completamente diversi. Giovanni, ti posso far sentire Mancini? Perché poi domani si ricomincia a giocare. E c'è ad esempio anche un Palermo-Inter che è importante, che ci deve dire tante cose sulle prospettive dell'Inter. Abbiamo ancora margini di miglioramento, secondo me molto grandi. E quindi riuscire a essere lì, primi, secondi, così, e non essere ancora al massimo, credo che questo sia una cosa molto positiva. Stiamo recuperando tutti e credo che potremo migliorare molto sotto tanti aspetti. Secondo te dove può andare l'Inter? Secondo me la partita con la Juve ha chiarito che non è da scudetto oggi. Ha prospettive da prime tre, ma se pensa al titolo forse sbaglia. Ma è una squadra muscolare, è una squadra che ha grande forza, ha anche delle ottime individualità. Credo che quando Mancini parla di che questa squadra ha grandi margini di miglioramento, adesso serve la mano dell'allenatore. L'allenatore che cosa deve dare a questa squadra? A questa squadra che è composta, ripeto, da ottimi giocatori, con qualche campione. E manca il gioco, manca il filo conduttore, manca il saper cosa fare in campo. L'abbiamo visto in balia alla Fiorentina, l'abbiamo visto a Genova in difficoltà. Cioè, una squadra come l'Inter non può, non uso questo termine che magari è improprio, rubacchiare l'1-0. Una squadra come l'Inter deve andare e dire: signori, sì, rubacchiare in senso positivo, cioè nel senso di lucrare che è la vera caratteristica di quest'anno, di non prendere gol. Io credo per 5-6 partite su 8 non abbia preso gol. Infatti l'ho detto, era un termine improprio, però giusto per far capire, no? Cioè no, l'Inter deve andare con la sua, anche perché ha giocatori di personalità, perché ha giocatori internazionali. Però se arrivano in un campo e sanno quello che devono fare, se arrivano nello stadio di chiunque con la forza dei singoli, è logico che qualche volta un collettivo ti può superare, così come è successo alla Fiorentina. Ma se l'Inter comincia a diventare squadra, comincia ad avere un filo conduttore, come dice il mio maestro Arrigo Sacchi, ha uno spartito da suonare. Signori, questi suonano tutti, Sì, i solisti ci sono, poi bisogna vedere se è il concerto giusto per pensare di arrivare fino in fondo da prima, non lo so. Grazie a Giovanni Galli. Ciao, grazie a voi. Grazie a Giovanni Galli, 800 24 00 24. Poi oggi parliamo anche di una data particolare. Intanto Armando da Salerno. Salve, buongiorno, complimenti per la trasmissione. In parte io volevo fare delle domande sull'Inter che mi ha risposto il signor Giovanni Galli. Sì. Comunque volevo, non so, io vedevo le squadre di Mancini giocare 10 anni fa, la Fiorentina, la Lazio, la prima Inter, a parte Ibrahimovic e tutto, lasciamo stare le individualità, ma si attaccavano alla TV, cioè c'era una sintonia, c'era un gioco. Poi non so, già l'anno scorso con la Inter diciamo di Mazzarri è venuto Mancini, vabbè, una giustificazione, la squadra non l'ha costruita lui, ma quest'anno il filo non è cambiato. Sì, ma c'è anche credo un lavoro non finito, c'è un mercato che ha portato giocatori importanti negli ultimi giorni, poi Mancini dice in questi giorni spesso: io ho fatto pochi allenamenti con tanti giocatori che mi sono stati comprati a fine agosto. Io credo che tutto questo sia legittimo e credo che il bilancio sia ampiamente positivo per l'Inter. Forse queste tre partite, Fiorentina, Sampdoria e Juventus, ci hanno detto che l'Inter non è da scudetto. Oggi però sicuramente è una data particolare, perché 4 anni fa questa mattina ci salutava il Sic. Mi piacerebbe essere ricordato intanto come uno che ha vinto tanto, e quindi ancora ho vinto un po', però bisogna ancora lavorare in quella direzione lì, e poi mi piacerebbe essere ricordato come uno alla fine che che dava delle emozioni, che faceva emozionare quando c'era una sua gara, ecco. Questa cosa sicuramente Simoncelli l'ha fatta, lo ricordiamo come qualcuno che emozionava. Saluto Marco Lucchinelli, ciao Marco. Ciao a tutti. Andiamo incontro a un weekend davvero emozionante, a proposito di MotoGP, risultati questa mattina delle libere: Lorenzo Pedrosa e Marquez i più veloci, Valentino Rossi abbastanza in difficoltà, in ritardo, circa 7 decimi, ottava posizione, poi domani ci sono le prove ufficiali, vedremo. Poi ieri c'è stata la guerra psicologica di Valentino Rossi contro il resto del mondo. Lui preferisce che vinca Lorenzo per prima cosa perché è arrabbiato con me, secondo me è una questione proprio personale, e lui è arrabbiato con me per l'Argentina, perché in Argentina lui non l'ha mai detto, ma pensa che io ho fatto apposta a buttarlo giù, e poi per Assen, perché nella sua testa io Assen sarei dovuto, non so, tipo scomparire o comunque farmi battere. Io sempre, il rispetto a Valentino c'è e il rispetto rimane, perché alla fine è il più grande della storia del motociclismo, e il rispetto sempre c'è, e così quello che ha detto logicamente mi dispiace, no? ma alla fine io faccio il mio 100%, Australia ho vinto la gara, ho preso 5 punti a Jorge, così per questo non ho capito bene, no? ma alla fine qua il mio obiettivo è lo stesso, provare di vincere. Domenica a Sepang si correrà con l'elmetto da una parte e i fogli dei tempi degli avversari dall'altra, ho l'impressione. Marco Lucchinelli. Vabbè, doveva essere così da inizio stagione, secondo me. Se c'era Marquez in forma come lo era l'altro anno, era un'altra situazione. Però, insomma, Valentino non può nemmeno pretendere che l'altro sia contento. Cioè, io l'ho sempre detto che due avversari si possono aspettare, ma l'amicizia, quella che la vedo veramente dura, l'ho sempre vista dura io, e in tutti i casi non è che può pretendere che l'altro vada piano, l'altro vuole vincere le gare, l'ha dimostrato, è un Valentino come quando era giovane, era così Valentino, adesso ci stupiamo di Marquez è un Valentino giovane. Sì, lui, però Rossi dice: guardate che nell'ultimo Gran Premio lui ha fatto l'elastico apposta per evitare che io potessi avvicinarmi a Lorenzo. Marquez vuole che il titolo mondiale lo vinca Lorenzo perché è invidioso di me. Questo è poi, insomma, l'accusa nemmeno tanto velata, l'ha detto Valentino Rossi. Io non so se a te mai è capitato di correre contro qualcuno per farlo perdere, non un tuo avversario diretto, intendo. No, sinceramente no, ho corso sempre per arrivare prima alla bandiera a scacchi, non mi interessava chi era, non guardavo nemmeno tanto dietro e facevo strategie, perché sennò magari cadevo anche. Andavo molto distinto, però insomma erano altri tempi, non c'entra con oggi. E con oggi quello che voglio dire è che vinca, cioè Valentino è da inizio dell'anno che è lì, ho sempre detto che vince il mondiale, non lo vince sempre il più veloce. Valentino dei tre è il più lento, però è quello più completo, è quello che non è mai caduto, non ha buttato via niente, però non può nemmeno pretendere, insomma, che l'altro corre per vincere, poi ci interessa niente. Ma secondo te perché attacca Marquez così alla vigilia della penultima gara? Perché forse Valentino, insomma, ha paura, è nervoso, aveva attaccato la squadra dopo l'ultimo Gran Premio. Insomma, l'altra volta adesso c'era Iannone e i suoi fans, insomma non vorrei che diventasse come con Simoncelli, cioè, sono lì, sono quelli che danno spettacolo, sono quei tipi di pilota, quei personaggi lì, se li togliamo già Valentino è invidiato, ha 9 mondiali e c'hanno anche un rispetto che insomma nei suoi confronti. Poi sai, uno come Iannone, se sta davanti a Valentino è un marziano, se sta dietro non ha fatto niente, che sia ben chiaro, quindi Valentino è un punto di riferimento, sarà odiato, non è una novità, però insomma non ha tutta la ragione lui. Anch'io, se fossi Marquez, un po' per l'Olanda e un po' per l'altra, insomma non è che sarei contento, mi sentirei forse dalla parte della ragione e l'altro lo stesso, e quindi non potremo andare d'accordo. E quindi domenica mattina puntate la sveglia, perché c'è da divertirsi, credo corrano alle 8 di mattina, un sacrificio ma ne vale la pena. Ti chiedo per chiudere, Marco, ho detto prima risultati delle libere di questa mattina, per carità il venerdì è poco indicativo, però pare di capire che Valentino Rossi abbia qualche difficoltà come il weekend scorso. Sì, ma io non ci credo più alle prove, non le guarderei nemmeno io, perché ormai abbiamo visto che le prove, insomma, cioè è il giro veloce, abbiamo capito che Marquez e Lorenzo sono lì, si può inserire Iannone una volta, insomma, Valentino, abbiamo capito, tanto nelle moto non è la Formula 1, se abbiamo visto che si parte anche in seconda fila e devi vincere, vinci, quindi guarderei il passo gara e poi magari il tempo, speriamo che Malesia insomma può anche fare un'altra sorpresa. Io vorrei che lo facesse tutte con la chute e vincesse il migliore, vorrei vedere un bel duello, non so come dire. Sì, senza fare la danza della pioggia, oltre agli elmetti e ai fogli dei duello. Tempi. Io sono, duello, io sono perché, all'ultima il migliore, curva. C'ho ancora quest'idea qua io e basta. Grazie Marco. Ma saluto, ciao a tutti. Grazie ciao. A Marco Lucchinelli, ci siamo fermati qui. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchione in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Dopo di noi c'è Il Falco e il Gabbiano con Enrico Ruggeri, dedicato proprio a Marco Simoncelli, da non perdere. Noi invece ci sentiamo domenica dopo la fine della partita alle 17. Grazie, buon appetito.